210. Fegato col vino bianco. Il vino, come condimento, non è molto nelle mie grazie, a meno che non si tratti di vino da bottiglia e di certi piatti in cui è necessario per il carattere loro speciale. Ma poiché i gusti sono tanto diversi, che quel che non piace ad uno potrebbe piacere ad altri. Eccovi un piatto col vino. Tagliate il fegato a fette sottili e così naturale friggetelo in padella con olio e burro. Frullate in un pentolino un cucchiaino di farina con vino bianco ottimo ed asciutto per formare un intriso molto liquido. Quando il fegato sarà a 2/3 di cottura, versateglielo sopra. Finite di cuocerlo e conditelo con sale e pepe.